sempre il giorno, oh mille mille fuori insieme, oh mille mille fuori insieme. C'è punto e fremo, foscami sempre il giorno, foscami sempre il giorno, oh cento affanni intorno, oh cento affanni intorno, oh mille fuori insieme, oh cento e cento affanni. Cielo affanni intorno, cielo, fremo, oh mille mille fuori in sé, oh mille mille fuori in sé. Cento affanni, o cento e cento affanni, o cento.